Quando sono in onda io cerco di non pensare che ora, alle 16:06 minuti di questo venerdì di fine giugno, qualcuno mi sta ascoltando. Non lo faccio e non l'ho mai fatto. Ho sempre temuto che questa cosa potesse farmi impazzire. Solo che non l'ho fatto fino a ieri sera, quando le vostre vite voi me le avete portate direttamente qui, nella sede di Radio 24. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È il 24 di giugno del 2011, le 16:06 minuti. Questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia e sono qui. Abbiamo iniziato un po' tardi ieri sera. Si doveva cominciare alle 9, invece si è cominciato più o meno alle 9:30 perché la gente stava arrivando e c'è sempre qualcuno che è in ritardo. C'erano un sacco di persone ieri, sono venute apposta per la serata. Poi quando alla fine, dopo i saluti e dopo le foto finali, ho fatto un sacco di foto ieri sera, ognuno se n'è andato a casa propria, io ho iniziato ad essere tormentato da questo pensiero. E cioè, ma adesso dove saranno tutti? Mi piaceva l'idea di immaginare dove, dopo essere state lì, tutte quelle persone stessero andando o fossero già. In che posto, ad esempio? A casa? Altrove? E a farci cosa, ad esempio? Questa realtà è una curiosità che ho sempre avuto nei confronti di chi ascolta. Forse proprio perché non li vedo, quindi figuriamoci quando vedo in faccia le persone. Quanta voglia mi possa venire di sapere chi sono, cosa fanno, come lo fanno, ma anche solo dove sono in questo momento qui. E ho pensato che oggi, visto che io lo faccio ogni giorno lo dico, ogni giorno vi dico che sono qui e vi racconto quello che faccio, oggi vorrei fare una cosa molto semplice e molto lineare. Vorrei sapere quattro piccole cose da voi. Voi che state ascoltando e magari siete in un pezzo fondamentale della vostra vita, o magari invece no. Se state preparando un esame, se siete in giardino, se state cucinando, se state lavorando, se siete in auto, se non state facendo niente, state solo ascoltando la radio. Qualsiasi cosa voi stiate facendo, ovunque siate e chiunque voi siate. Oggi mi piacerebbe semplicemente sapere quattro piccole ma sostanziali cose. Il vostro nome, 1. La vostra età, 2. Dove siete, 3. E cosa state facendo, 4. Ecco, oggi io sono qui. E voi siete lì. È l'erede di Totò, non c'è altro da dire. Parola del dottor Salvati. Lui chi? Lui, Matteo Caccia, che ieri sera ha fatto il pieno di consensi con Io sono qui live. 500 persone in una sala da 300 per un successo che neanche Shakespeare se lo immaginava. Perché ieri sera, presente alla serata, oltre a tutti gli ascoltatori, c'erano anche tutti gli amici della radio, no? Dai conduttori, ma soprattutto tutti gli assistenti, gli autori. E questa mattina, quando sono arrivato in radio, sulla mia scrivania, mi sono trovato delle che avevano a tutti gli effetti la forma di un'ansa. Non so se ci avete presente com'è la forma di un'ansa. Vabbè, c'è un titolo e poi c'è una c'è la data, eccetera. E c'è anche la firma finale. Dov'è? Eccola qua. Dottor Salvati, nato l'erede di Totò, ANSA, il cantiere 24 giugno. Chiaramente io non ci sono cascato semplicemente perché Piantanida me l'aveva già fatto un'altra volta questo scherzo prima della finale di Champions dell'anno scorso. Mi era apparsa un'ansa così sulla scrivania che diceva Snyder, stiramento all'adduttore della gamba sinistra. Io no, ma l'avete visto? Insomma, ormai so che Franco Piantanida fa di queste cose e più tardi ne faremo sentire altro. Questo era un modo per ringraziare lui e ringraziare tutti quelli che sono venuti ieri sera. La serata di ieri sera credo che verrà trasmessa con un speciale, forse, ma sicuramente verrà fatto un podcast entro questa sera, quindi quelli che non sono venuti potranno riascoltarselo questa sera. Non sto qui a ringraziare tutti quanti perché l'ho già fatto ieri sera e poi tutto diventa stucchevole. Andiamo sul pezzo, stiamo su oggi. Oggi vorrei fare una cosa molto semplice, via SMS 349-238-6666 o con una telefonata, breve direi, 800240024, i numeri sono sempre quelli. Quattro piccole cose. Chi siete? Cioè, età, nome, dove siete e cosa state facendo. Facciamo un identikit delle persone che ascoltano questo programma, anche se ci sono capitate per caso adesso, magari. Facciamo una piccola mappatura di dove siamo, chi siamo e che cosa stiamo facendo. 800240024 0024 349-238-6666. C'è un'altra. Mi dicono che è arrivata un'altra ansa, probabilmente sarà simile a quella di prima. Roberto, Bob Marley, il barista del lounge bar Il Cantiere, non riconosce Matteo Caccia e gli nega lo sconto per 10 birre e 5 litri di mojito. Dai, fammi uno sconticino, ho appena finito un live, la supplica di Caccia. non è andata esattamente così, è stata un po' diversa. E poi sapete che essendo astemio faccio fatica a mandar giù anche tanto così di mojito. 800240024, un esempio, Gabriele Parma, 37 anni, benzinaio, appena smontato, via per l'allenamento. Marco, 32, Firenze, a casa, sono uno studente di economia e commercio. Luisa, 25, ad Alba in ufficio. Matteo, Torreglia, Padova, non dice quanti anni ha. Primo giorno di ferie, preparativi per le vacanze. E ancora Maglio, sul camion, ogni giorno ascoltando Radio 24, da Milan a Cruciani. Tra parentesi, quando finisco tardi, è lunga la giornata. Agnese, a casa a studiare per l'esame orale di terza media, che avrò il 29, Agnese, quindi c'hai 13 anni, direi. E poi Stella ancora, Stella 25 anni, Stella in atelier a cucire. Chi siete? Quanti anni avete? Il vostro nome? La vostra età? Cosa state facendo? E dove siete? 349-238-6666 80024 0024. Non so se avete idea di come sia fare la radio. Credo di no. Credo che abbiate maggiormente idea di come si ascolta la radio. Anche se sicuramente tra voi ci sarà qualcuno che si è trovato in uno studio almeno una volta nella vita. Oggi ho deciso di raccontarvelo. Ho deciso di farlo perché solo partendo da qui posso descrivervi con una certa precisione quello che è successo ieri sera, nella serata che ha in qualche modo coronato questa stagione di programma. Fare la radio è un po' come pensare ad alta voce. Fare la radio da soli, intendo, farla in coppia è un'altra cosa ancora, però l'ho fatta poco e un po' di anni fa e quasi non me lo ricordo. Però parlare da solo a un microfono è proprio come lasciare sfuggire i pensieri in forma di parole. È per questo che è complicato, perché pensando ad alta voce, quasi senza che noi ce ne accorgiamo, diciamo delle cose che altri sentono. È ovvio che chi parla ad un microfono sa benissimo che qualcuno lo sta ascoltando, non parla per sé, lo fa perché dice delle cose che vuole che altri sentano, no? Che altri ascoltino. È per come chi scrive un libro, uno scrittore scrive da solo, non ha bisogno di verbalizzare i suoi pensieri, e li scrive senza vedere in faccia le persone che leggeranno quelle parole. Però lui sa benissimo che il giorno della pubblicazione del libro, o un mese dopo, o un anno dopo, o addirittura dopo che lui sarà morto, ci sarà qualcuno che probabilmente leggerà quello che lui aveva da dire. In realtà poi, parlare davanti a un microfono è meno complicato di quanto si pensi, cioè è meno spaventoso, forse perché l'unica cosa che cambia da quando si è in onda a quando non lo si è semplicemente una luce rossa accesa. Cioè non è come al cinema, no? Sul set, che c'è uno che urla «Motore! Azione!» E da lì in avanti tutte quelle 30-40 persone intorno improvvisamente si zittiscono. E non è nemmeno come il teatro in cui si abbassa la luce in sala e si accende sul palco, no? È molto più normale. Entri in una stanza insonorizzata, aspetti che si accenda la luce rossa e parli. Non hai bisogno di vestirti in un certo modo, non hai bisogno di pettinarti, di truccarti. Non hai nemmeno bisogno di avere una bella voce. Quella ce l'hanno i doppiatori o gli speaker. Le trasmissioni che mi piacciono di più in radio sono sempre state condotte da persone con voci stonate, magari stridule, spesso con inflessioni che arrivavano da chissà dove. Però la cosa che per me è sempre stata più difficile riuscire ad elaborare da quando ho iniziato a lavorare in radio è sempre stata il concetto del di là. Cioè immaginare l'altra parte, per il semplice fatto che non c'è un unico di là. Cioè, non c'è una sala in cui tutte le persone che ti vogliono ascoltare si riuniscono e stanno lì in silenzio a sentire quello che dici. No, ci sono centinaia di migliaia di luoghi di là da questo microfono da cui sto parlando, oltre le casse delle radio che stanno trasmettendo questo programma in questo momento. Roba che se ci penso io divento matto. E quindi cerco di non pensarci. Davvero, cerco di non pensare che ci sono persone che sono in auto, ad esempio, in questo momento. Cerco di non immaginare la loro auto, se è lussuosa con i sedili in pelle, oppure se è una di quelle vecchie auto che devi tirar giù i finestrini a mano per far entrare un po' d'aria. Cerco di non pensare se sono in coda, oppure se sono in autostrada o fermi a un semaforo. O magari tra le radio accese in questo momento, quante sono in cucina, mentre qualcuno prepara un piatto per stasera? O in uno studio, mentre qualcuno disegna, studia, elabora dei dati? Cerco di non pensare che ora, alle 16 e 15 minuti di questo venerdì di fine giugno, qualcuno mi sta ascoltando ad esempio con delle cuffie in spiaggia o mentre corre per la strada. E sapete perché cerco di non pensarci? Perché pensare a tutte queste cose significherebbe pensare che a tutte le persone che si trovano su quell'auto, in quella cucina o su quella spiaggia, stanno ascoltando. tutte le persone che siete voi, con le vostre vite, le vostre gioie, i vostri problemi di adesso, di questo pomeriggio, di questo momento esatto. Non lo faccio e non l'ho mai fatto, perché temevo che questa cosa potesse farmi impazzire. E non l'ho fatto fino a ieri sera, quando le vostre vite me le avete portate direttamente qui, nella sede di Radio 24. La serata di ieri per me è stata rivelatoria. C'erano più di 500 persone nella sala collina qui sotto la radio. E avere 500 persone non è come averne 50 o 100, è una cosa un po' diversa. E non solo perché la sala è piena e sei emozionato, ma perché per una volta quelle persone hanno lasciato le centinaia di posti diversi da cui ascoltavano in silenzio. Hanno preso treni, autobus, auto, qualcuno anche aerei, e sono venuti fino a qui. E li hai visti in faccia e ci hai parlato. E ora quindi te li puoi immaginare a casa, al lavoro, in auto, mentre ascoltano quello che dici. E questo un po' è meraviglioso e un po' è spaventoso. E anche per questo motivo vorrei ripercorrere qualche pezzo della serata di ieri. Ripeto, verrà fatta sicuramente una puntata speciale che andrà in onda e in cui ci sarà probabilmente tutta quella serata. Però tutto è ancora così caldo oggi che io non riesco a non pensare a ieri sera. Quindi questo è per tutti quelli che non c'erano, ma anche per quelli che c'erano. Caro Vincenzo, ti scrivo questa lettera che è l'ultima lettera che ti scrivo. Avrei dovuto buttarla giù molto tempo fa, solo ora però ho avuto il coraggio di farlo. Io non lo so che cosa accade quando due persone si incontrano. Saprei dire che cosa è accaduto a me quando ti ho visto. Ma non lo farò. Saprei descrivere ogni mio viaggio verso Napoli, con quel misto di gioia e di senso di colpa che mi stringevano la pancia. E la città che non avevo mai visto mi appareva così bella, così pericolosa. Ed io sono sempre riuscita a vivere, anche se non so come, la mia vita in famiglia e la mia vita con te. Da bambina però mi hanno insegnato a vivere quello che è giusto che vada vissuto, e non quello che si vuole vivere. Questo è quello che ho sempre fatto ed è quello che ho deciso di fare. Non penso sia codardia la mia, penso sia solo il modo per dare ordine alla mia vita. Stare con i miei figli, con mio marito, rimanere in questa città che sembra fredda, e in fondo non lo è. Non credo ci sia niente di sbagliato in me. Il senso di colpa non riguarda il mio matrimonio, riguarda il mio scarso allenamento alla felicità. È che non sono abituata a tutta questa gioia. Dopo quei pomeriggi con te e le notti passate insieme, mi sembrava di scoppiare. Era una gioia quasi dolorosa quella che provavo, come una bottiglia troppo piena che rovescia il vino che contiene. Fino ad ora questo accadeva a mio malgrado, senza che lo sapessi governare, e se pensavo a noi, al tempo insieme, quella felicità che avrei voluto tenere tutta per me invece andava in parte persa. Non sapevo mai quale parte traboccava, sapevo però che non sarei più riuscita a recuperarla. E poi è successo quello che forse volevamo, o semplicemente quello che era inevitabile. Ora quella nostra felicità è entrata completamente dentro di me e sta prendendo vita. Questa volta però so che non ce la farò a contenerla tutta. So che non riuscirò ad andare fino alla fine. Non posso fingere che questo bambino appartenga a me e mio marito quando invece è nostro. Vincenzo, questa è l'ultima lettera che ti scrivo perché non credo sia possibile continuare dopo questa mia decisione. Ho deciso di tradire la nostra felicità, di farlo con le mie mani e di nascosto. Mi spiace non avere questa forza, mi spiace, ma ho paura che non riuscirai mai più a guardarla in faccia. Spero che questa lettera ti trovi e ti trovi bene. E magari quando tutto questo sarà finito. Tua, Agata. This is how it works. It feels a little worse than when we drove our hearse right through that screaming crowd. And then you take that love you made and stick it into someone else's heart, pumping someone else's blood and walking arm in arm. You hope it don't get harmed. si è girato e mi ha guardato con quegli occhi che solo i bambini hanno, quando non hanno alcuna espressione. Roba che si capisce che se tu non continui a parlare sei fottuto, perché loro possono fare qualsiasi cosa, da mettersi a piangere e dire mamma mamma questo mi ammazza, oppure rimanere in silenzio per tutto il tempo che vogliono, all'infinito. E allora io ho proseguito, vedi Ettore, la vita è come una pizza margherita, è buona da mangiare, quando esce dal forno scotta, però è il momento in cui è più buona, forse perché c'hai tanta fame. Ecco, in quel momento tu cerchi di divorartela tutta, perché ogni secondo che passa la pizza si raffredda sempre di più, e mentre la mangi con forza ti dispiace che non ci sia più la mozzarella filante, la pasta morbida, ti viene già un po' di malinconia. E in più ti si gonfia lo stomaco perché stai mangiando troppo veloce. Ma se anche te ne accorgi, non riesci a fermarti. Ecco, quello è il momento peggiore. Quando invece la pizza la stai finendo, ormai è fredda, fa quasi schifo, però pur facendo schifo rispetto a quando uscita dal forno, è sempre più buona degli spinaci al burro, ad esempio. E quindi tu continui a mangiarla, così, l'ultimo pezzo, come fossero degli scarti. E lì cominci a sorridere, perché la crosta, anche se è dura, anche se è fredda, è buona, la mangi chiacchierando, quindi non le dai troppa importanza. Poi ogni tanto ti capita un pezzo di mozzarella, un pezzo di pomodoro, allora lì ricordi la pizza quando era ancora buona all'inizio. Poi ogni tanto ti tocchi il palato con la lingua e senti che è ancora un po' sensibile, per quando ti eri scottato. E il tempo si dilata e cominci a bere Coca-Cola all'infinito. Ettore mi guardava senza cambiare espressione, col joystick in mano. Io ero convinto di avergli spiegato una cosa importantissima. Poi lui si è girato verso la TV e ha ricominciato a giocare. Mentre metteva sotto un passante con un'auto, si è girato e mi ha detto: io non l'ho mai mangiata la pizza. Non l'ho mai mangiata la pizza. La mamma dice che ha la farina raffinata e che mi fa male. Ripeto, verrà fatto probabilmente una puntata speciale, sicuramente un podcast che sarà online a breve, lo caricheremo anche su Facebook. E su Facebook ho visto qualcuno ha girato dei video, se vi interessa, se volete rivederli o se non ci siete stati. 800240024 349-238-6666. Chi siete? Età, nome, da dove venite e cosa state facendo? Cristina, 32 anni, in ospedale, tra qualche ora conoscerò la faccia di mia figlia. Pietro, 43 anni, soncino, faccio il venditore ambulante. Maria Antonietta, 59 anni, sono all'accoglienza di un sito archeologico di Tuscania, Viterbo. Monica, 41 anni, Carpi, sto lavando i piatti. Maria Angela, 27 anni, torno a casa dove mi aspetta il mio fidanzato per un chiarimento. Ha scoperto un SMS dove facevo delle avance al mio capo. In bocca al lupo. Andiamo a sentire qualcuno che è in giro. No, non facciamo in tempo, abbiamo la borsa, scusatemi, non avevo capito proprio niente. Un ultimo messaggio. Claudio, 33 anni, sono in fabbrica, produco tappi di sughero. Non è vero che Matteo Caccia mi ha battuto, dichiarato Rafa Nadal. La sua è pura diffamazione. Impugnava la racchetta come la Clerici impugna un mestolo per girare la zuppa. Se vuole una sfida, io sono qui, ha concluso il tennista. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo su un balcone, al potrebbe essere secondo, terzo piano, forse qualcosa di più. È sera e i protagonisti della foto sono due telescopi. Oddio, uno forse è semplicemente un monoscopio, l'altro è un telescopio. Sono puntati verso il cielo per vedere chissà che cosa. Gianpiero Realmuto, 42 anni. Dal balcone ho cercato di scorgerti, ma tu, Luna, sei rimasta eclissata dietro le nuvole. Castellanza, provincia di Varese, 15 giugno 2011, ore 22:23. Io sono qui. Questa foto è bellissima, vi consiglio di andare a vederla. Vi spiego perché è bellissima. È talmente bella che io prima l'ho vista perché Laura Faggin me l'ha stampata. Però devo averla lasciata da qualche parte e mi sono accorto durante la borsa che non ce l'avevo. Però l'avevo memorizzata. Ci sono questi due telescopi puntati verso il cielo e adesso, come ci dice Giampiero, stava cercando di guardare l'eclissi lunare. 800240024 349-238-6666. Chi siete? Cosa state facendo? Dove vi trovate? Sto perdendo un sacco di soldi in borsa. Paolo da Milano. Guido, 24 anni, Milano, in macchina alla fermata del metro 2, Udine, ad aspettare Laura per uscire per il weekend. Andiamo però velocemente a sentire qualcuno. Andiamo in Sardegna, Carbogna. Pronto Enrico? Pronto, ciao. Ciao Enrico, come stai? Ciao, bene, bene, bene. Senti, dimmi allora, chi sei e quanti anni hai? Allora, sono Enrico, 34 anni e faccio il viticoltore. Dove sei? In vigna. Dove? Sotto il sole. E cosa stai facendo? Sto facendo l'ultima arattura dell'anno, speriamo, dell'annata. L'ultima, scusami? Arattura. Ah, l'ultima. Sto lavorando, sì. Ma sei sul trattore, quindi? Vabbè, sono sceso perché altrimenti il rumore si sentirebbe l'uno, mi sentirei io. Non è di quelli con l'aria condizionata? Assolutamente no. Ah, e quindi come l'ascolti la radio? Ho le cuffie con il cellulare, la radio del cellulare e poi le cuffie per il rumore. Però è acceso il trattore in questo momento, si sì, sente? Sì, sì, sì. Che sì, cilindrata sì, è? 3.008 mi pare. Enrico, grazie mille, buona giornata, ti lascio la vigna. Ciao, ciao. Ciao, grazie. Ancora Zeno, 48 anni, Alessandria, dal dentista in attesa di un impianto. Andiamo ad Adriana, a Milano. Pronto Adriana? Pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, grazie. Io sto benone, Adriana. Dimmi allora, quanti anni hai, Adriana? Compio oggi 82 anni. Beh, ma allora auguri, che segno sei? 24? Grazie, cancro. Sei del cancro. Sì. Compi però, non è tanto la notizia che oggi è il tuo compleanno, quanto che hai 82 anni. Ma hai la voce di una ragazzina però, Adriana. Mi è rimasta solo quella. Senti, dove ti trovi? Mi trovo sull'autostrada, sto rientrando a casa. Da dove? Sono andata sui colli piacentini a fare rifornimento di buon vinello. Sei andata sui colli piacentini a comprare il vino? Sì. Che vino hai comprato, Adriana? Oltrugo e quella Gutturno. Senti, scusami, ma il vino poi cosa fai? Fai delle cene con degli amici oppure... Sì, sempre per la famiglia, gli amici, i figli, insomma ci riuniamo sempre, per cui... Bisogna fare una scorticina, insomma. Che cosa hai fatto in 82 anni di vita, Adriana? Ho fatto tantissime cose, ma tantissime. Dimmene due. Mi sono c'è il marito che suggerisce. Sono entrata in un'azienda come telefonista e sono uscita come direttore del personale. Poi io mi sono sposata, ho fatto due figli che sono tutti e due laureati e ho tre nipoti. E sei felice, Adriana? In attività. Adriana, sei felice? Sono serena. Adriana, ti ringrazio molto, buona giornata. Altrettanto te. Ciao, ciao, grazie. Saluti anche al marito, non l'abbiamo salutato, che era lì di fianco e suggeriva. Margherita, 46 anni, sono nel mio laboratorio a decorare due comodini, faccio decoratrice di mobili in legno da 11 anni. Marta, 27, nel mio studio, circondata da strumenti musicali, provo i brani per il concerto di stasera. Andiamo a Serena, dalla macchina. Pronto, Serena? Pronto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao, quanti anni hai, Serena? 39. 39, dove sei? Allora, siamo partiti da Arezzo, stiamo andando verso le Maldive del Salento, però fermata da Alberobello. Scusami. Poi domani ripartiamo. Fate una tappa? Sì, facciamo una tappa. In quanti siete in macchina, Serena? Allora, qui siamo con due macchine, qui sì, siamo in quattro, tra cui Edoardo e la Caterina che sono più piccoli, e nell'altra c'è la Camilla che salutiamo. Salutiamo anche la Camilla. Scusami, scusami, quanto fate di ferie in Salento? Facciamo 8 giorni. Ah, poca roba. Sì, sì. Ma poi fate un richiamo ad agosto. Ad agosto, bravo, al fresco, però in montagna. Grazie mille, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao Serena, ciao. Grazie. Mauro, 33 anni, vicino a Cremone, in autostrada, vado a Cuneo dalla mia ragazza. Come lo vedi Gasperini? No, di calcio se ne parla altrove. E soprattutto ho sentito prima al GR che Gasperini viene pagato tantissimo, 1.200.000.000 di euro. Mi sembra un po' troppo, no? Devo parlare con Maurizi, non vorrei che avesse letto male, perché mi sembra un po' tantino. La notizia non sarebbe tanto Gasperini quanto il suo stipendio. Giacomo La Spezia, 23 anni, cerca un'idea per un master dopo una laurea in giurisprudenza. Susanna, 56 anni, sto andando a Piacenza a festeggiare la nonna Giovanna, perché oggi è San Giovanni. Oggi non è solo San Giovanni, oggi è San Giovanni Battista, e quindi anche un po' l'onomastico di mio padre. Che povero lui, si chiama Battistino. Andiamo a Montalto. Pronto Andrea? Sì, ciao. Ciao, quanti anni hai Andrea? 40. Dove sei? Adesso sono fuori ad aspettare la tua telefonata. Ero in cucina e stavo preparando per il ristorante che ho con mia moglie. E sei a Montalto di Castro? Montalto Pavese. Montalto Pavese. Pavese, scusami. Ma Montalto di Castro dove si trova? Montalto di Castro penso che sia in provincia di Piacenza. Ok, senti, che tipo di ristorante avete? Cucina dell'Appennino, tipica locale, uso le erbe dell'orto, i prodotti nostri. Ma quindi avete tipo pochi coperti? E... Sì, facciamo, abbiamo massimo 25 coperti. Con quanto si cena nel vostro ristorante? Dai 24 ai 28 euro più i vini, però anche quelli sono vini del posto, quindi... Non ti uccido se vieni. Dimmi, ti ringrazio. Dimmi solo che cosa stai preparando esattamente prima di uscire. Due torte di pasta brisé con le erbette, le biete, la ricotta e la crescenza. Voilà, grazie mille Andrea, buona giornata. Grazie a te, ciao. Ciao. Andiamo all'ultimissima, andiamo a Torino da Massimo. Massimo. Ciao. Ciao. Quanti anni hai Massimo? 48. E che cosa fai nella vita? Faccio il veterinario per cavalli. Che è specifico? Solo per cavalli? Sì, in realtà sì, è molto specifico. Però stai andando in giro a comprare? Sto facendo sì, gli ultimi acquisti perché preparo un viaggio in moto attraverso gli Stati Uniti da una costa all'altra da solo e in fuoristrada. Wow, quando parti? Il 16 di luglio. E quando torni? Non lo so, ci impiegherò circa 50 giorni ma non ho idea. In bocca al lupo Massimo, grazie. Ciao. Ciao, buona giornata. Chiudiamo con un racconto che esce domenica insieme al Sole 24 Ore, con la domenica del Sole 24 Ore. Oggi parliamo di Nikolaj Gogol. Non c'è nulla di meglio della prospettiva Nevsky, perlomeno a Pietroburgo. Per la città vuol dire tutto. Di cosa non brilla questa via? Splendore della nostra capitale. Io so che nessuno dei suoi pallidi e impiegatizi abitanti scambierebbe la prospettiva Nevsky con tutto l'oro del mondo. Non solo chi ha 25 anni d'età, degli splendidi baffi e un soprabito cucito a meraviglia, ma persino colui al quale spuntano dei peli bianchi sul mento e chi ha la testa liscia come un piatto d'argento va in estasi per la prospettiva Nevsky. E le signore? Oh, alle signore la prospettiva Nevsky piace ancora di più. Ma del resto a chi non piace? Appena imbocchi la prospettiva Nevsky, senti subito aria di passeggiata. Anche se hai qualche affare importante e urgente, appena ve l'avrai messo piede, dimenticherai certamente qualsiasi impegno. Questo è il racconto Prospettiva Nevsky, che insieme al racconto Il Cappotto esce per il sesto libro della collana Racconti d'autore, domenica, insieme al Sole 24 Ore. Grazie a Tiziano Bonini, a Laura Faggin e a Paolino Corleoni. Grazie anche ad Alessandro, che a proposito di dove siete e cosa fate, ho 36 anni, sono a Zanzibar, in Tanzania, e lavoro sul bilancio con i revisori. La prossima è l'ultima settimana di Io Sono Qui. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi?